Pubblicata sulla rivista di poesia contemporanea Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, una nuova poesia di Luca Sardo Giambonino dal titolo La guerra. Passi di marcia rimbombano sul selciato, suoni di tromba a festa, partono i militi verso la guerra, verso il destino loro. Guerra d'indipendenza alle porte, ed ognuno dovette fare la sua parte. Il caro mio dolce Marzial Trisnonno fece la sua, combatté quando vi fu da combattere, ne ricevette gli onori quando vi fu da raccoglierne. Ti immagino ancora a cavallo un nero destriero quando c'era a spronare gli uomini alla battaglia, verso il nemico, verso la gloria, verso la vittoria. Vittoria che fu tua quanto fu nostra, unificaste l'Italia, e quel che resta è una medaglia. Nessuno a ricordare il sangue e il dolore, la polvere e il sudore, la gioia e l'ardore, la gloria e l'amore, forse solo un piccolo poeta che di tuo porta cognome sangue.